707 soufflé di castagne. Marroni dei più grossi, grammi 150, zucchero grammi 90, burro grammi 40, uova numero 5, latte decilitri 2, maraschino cucchiaiate 2, odore di vaniglia. Fate bollire i marroni nell'acqua per soli 5 minuti, che tanti bastano per sgusciarli caldi e per levar loro la pellicola interna. Dopo metteteli a cuocere nel detto latte e passateli. Indi dosateli con lo zucchero, il burro sciolto, il maraschino e la vaniglia. Per ultimo aggiungete le uova, prima i rossi, poi le chiare ben montate. Ungete col burro un vassoio che regga il fuoco, versateci il composto, cuocetelo al forno da campagna e prima di mandarlo in tavola, spolverizzatelo di zucchero a velo. Basterà per 5 persone.